telefonando un giovane poco fa, ho parlato con Marco al telefono. Ma non sa che ci può essere la possibilità che sia una persona che conosciamo tutti, che qualcuno gli abbia messo un buon piede in mano, perché sta proprio a sorso, a Rosmere, Falcone. Dice che a lui gli sembrava quella modulazione a Marco. E sta a sorso la sorella a lui, eh? la città delle bombarde. Librerie alle bombarde, direzione delle bombarde. Stampa di Rogero, dove sei adesso? Fatto di senti? Sì, dove? Sono una cagata. Sento una cagata, Robè, mi dispiace dirtelo, ma mi fatelo dire c'è Domenico. Domenico, come lo senti a Roberto? Ma c'è 50 macchine, prima di arrivare a 3 macchine. Okay. Bene, male, discreto, com'è? No, bene, bene, non ci ascolto bene. Andare, dai, tu aspetta come mi ascolti. Tu sei locale. Via, con la Toto Plus. Stai facendo tutto bu, devi abbassare il macchini e parlare da lontano e via. Ma sai questo com'è? Questo sembra più chiaro, da. Come è basso, come livello? Posso alzare qua? Puoi alzare sì. Ancora devo alzare? Alza. Guarda un po' troppo alto così. E così te la fa cuppa, è troppo alto. Guarda adesso. Prova per un passaggio più lungo. Allora, 1, 2, 3, 3, prova canale 21, prova radio. E cuppa è vero. E come livello com'è? Non parliamo di cuppetta, troppo bassa. Non va bene, sì. Ma comunque questo è meglio dell'altro, di quello che avevo poco fa. Arrivo a te, sì. Secondessa. Aspetta, ne proviamo un altro e vediamo l'ultimo tentativo, dai. Luca, riprova a vedere. Va bene, guardi un po'. Guarda, sta lì, 1, 2, 3. Dimmi un po', mi ascolti. Sono distante dal microfono, quasi un metro, dai. Adesso va bene se non strilli. Devi parlare una voce bassa. Tanto lui si amplifica lui. Beh, vabbè, dammi il tempo per ci quota. Torni in cima, no? Ecco, diciamo. Aspetta. Ok, dai. Segnale com'è? Tu sei 9.30 qua. 9.25 sta arrivando qua, dovresti abbassare appena appena ma che ma un pelino me. Aspetta. Sotto la C macchinini, macchinini. Fa un passaggio più lungo, non strillare però. Senza strillare devi parlare normalmente, come quando parliamo di persona, che vedo un po'. Vai. Io non ho scelto strafare la torina. No, sono qui. Allora, va. Vai, Luca. Ma io non sto gridando, sto parlando piano. Non so come devo abituare. Sapo là, è un baracchino. Questo qua è un baracchino, sì. Però con un altro tipo di microfono. Ma se non mi devo abituare, datemi il tempo. Tu lo imparerò anch'io, no? Non sto gridando, sto parlando piano, tranquillo, sereno. Ero abituato con l'altro magari a sollevare la voce. Ma Fabiano va bene così, dai. Provi a tenere così, non riduca più, poi ne dirà, staccava. Adesso, io non tocco niente. Dai, adesso poi magari chiedo un po' agli altri, così mi faccio un giro di controlli e via, dai. Uno di voi mi dà una sua opinione. E c'è Claudio, qua fatto la Claudio, cavolo. Io dico che è un Claudio, ma mi si sono fatta lui. Ma era un po' un vostro giudizio, ecco, per come mi sentite. Tu mi senti bene, ok. Pertanto, non so, non mi ha dato risposta perché c'era portante prima, vai per qua. Allora, rispondati al 23. Ti ho chiesto anche, ma sei tu, perché c'è stato anche... Che cosa combinato? Di Roberto, ancora tutto bene, ok. Niente da dire, evoluzione perfetta, pulita, va bene così. Che fa, aspetta, non è che se non fece per accontentarmi, se c'è qualcosa che non va me lo dici, qua si può fare qualche regolazione, forse mi stai controllando veramente che va bene, ok, la lasci così, io non tocco niente. Chi è arrivato a fondo scala, cosa ho fatto? Ho agganciato un MC60 alla 48. Chi ti deve fare la vacca? Sono contento di aver attaccato l'MC60 al K48. E allora? Se hai tu forte il tuo, 960, picchi positivi. Vorrei avere number one, insomma, no comment. Buonasera a tutti, mi occupo per me, scusate l'entrata, ho sentito a Luca che stava arrivando a pompa e ero curioso. Ma dai, ci sei ancora? No, non hai capito però te, perché stai facendo il bianco? La risposta, no? Ah, allora io non ho niente per accontentare. 50, picchi 9,60, Leo 9,60, Franchetto 9,10, Roberto 40, non mi trovo a tempo. Comunque, se ne sono tutti forti qua, tutti. E San Vito lo stesso è 9,50, picchi 9,60, tutti i miei segnali. Adesso mi assento, ora mangiare, a frappe, così la facciamo scandalo un altro po'. Oggi mi dedico a farmi due chiacchiere. Un po' più che c'è la bottiglia in nome di Bossava. Catarino, ci sei? Posso salutare? Là. Ok, allora buonasera a tutti. Io sono risposto appunto al segnale di commento di Catarino e Luca. Comunque buonasera a tutti, buon proseguimento e ci sentiamo alle plus. A te Natalino, guarda, ti sta cercando, cioè ti sta chiamando Robert. Luca, per me vai benissimo, non c'è nessun problema. La regolazione che ha fatto Natalino è ottima. Vai Natalino, le prendi tu e mi fai ci sia Roberto, ti sta chiamando. Buonasera a tutti, comunque circolare. Ciao qua, mi hai sentito 73 alle prossime. Roberto. Era ora, ciao Claudio, ci sentiamo. Come con questo come Natalino? Perfetto. Va bene? Ehi, questo lo puoi anche alzare. Capito, scusa? Lo puoi anche alzare quello. Questo è quello che dovrò portare al mare, l'M93, quello che l'ha abbinato al Mobicom, già sai tu. Com'è il livello? Va bene o posso anche alzare? Dimmi un po' così non lo tocco più. Prova a alzarlo, senti, lo sai per certo come lo devi mettere, basta, prova a alzarlo. Ma al minimo con questo, guarda un po', uno, due, tre, prova radio. Va bene, va bene. Lo puoi alzare anche di più, vediamo un po', Per la metà adesso, no, perché al mare sono lontano, mi devo far sentire, qua si riprende, sono in città, dammi un po' più forte del normale, dammela la potenza. Ecco, è più forte del normale, così può andare, da lontano dovrebbe andare bene. Ti occupa come prima, meglio degli altri del microfono. Non c'è paragone, gli altri erano mondezza. Vabbè dai, continuate, chiudo tutto quanto e poi do dei controlli a Luca con l'altro apparato, così ti dico come sta uscendo. Grazie Natalia, ci sentiamo tra poco, dai, ciao a tutti. Ciao, ciao. La Robe. Natalia. Chi è? Lo lascio così questo 440 come modulazione. Benissimo, va benissimo. Ok, grazie. Benissimo. Bravissimo, perfetto. Va, controllo anche a me, tanto siamo la giornata dei controlli. Bene, sto scendo la tariffa. Non fa culo. Se mi dai più controllo, basta. Se scende male, te lo dico, mi fa che sta scendendo male. Quando ci vai non ti dico nulla. Chiappa di rogero, adesso per quello vado all'acqua di luro adesso. Mi sa che ci vado anch'io. Natalino non ha un controllo di radio, cambio! I controlli sono finiti, tutti danno troppo duro! Cazzo! Cari e porci, quel controllo a me non me lo dai, vabbè, vai! Fatti controllare la porta, va! E perché sei così acido adesso? Perché io con quelli che hanno la porta da quel paese non ci parlo. Grazie del controllo, c'è, arrivederci. Magnifico, meglio un funente. Anche io ho usato il cammino. Ti sei figurati di entrare a domanda un controllo. Sono fatto le balle aspettative che mi metto qualcosa in bocca. Qualcosa da mangiare in bocca e non qualcosa altro come... Sì, sì, tu. Faccia lei, io non sono così magnifico. Ciao Falchetto! Ciao, ciao, ben sentito anche a te. Ciao Pierpaolo, diciamo, sono quello vecchio da una parte e quello vecchio dall'altro. A mano, come ha acceso poco, anche ho sentito a Luca e mi ha sparpagliato le orecchie, finalmente sta scendendo bene, sono contento. Appagappa. Vai, va, fai girare Natalaus, grazie per il controllo, io già me la segno. ragazzo, la sai che ti manda a fanculo se mi chiedi il controllo? Prova a parlare. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che se no vai a tanti picchi positivi qua. La radio di livello va più o meno bene, diciamo, come fa nella stessa distanza di prima, di come parlavi normalmente? Sono distante un metro, vabbè, anche di più. Com'è così lontano? Sentite normale, a distanza normale, ma non pareva seduto perché? Ma pare se si avvicina. Guarda, adesso sono 50 circa, 60, dai. Non sto gridando. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendi. Rispetto alla radio sono un pochettino più basso come livello. La radio già va bene, già è forte, già si sente. Però la radio è un po' più forte di te. Puoi sollevare la parte mia, puoi sollevare un peluzzino. Cosa sollevare? Esatto. Cos'è, Lu? Cosa sollevare? Il Mickey Gain, un puntino. Dove ce l'hai? In che punto ce l'hai? A metà dove c'è, come si chiama, la C o la I? Sotto la C io sono al massimo, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, così forse sei un po' troppo alto, però tieniti sempre la stessa distanza, non avvicinarti. Ma non sto avvicinando io, roba, assolutamente. Guarda un po', adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sotto la C, dai. Vedi un po', per segnare mi devi dare anche, vai. Il padrone segnale non l'ho visto, guarda un po'. 1, 2, 3, 4, 5, vai. Una bomba, 9,30 picchi 9,35. Quindi 9,30 picchi 9,35. Sto usando una baghetta di 50 watt. Togli per curiosità il processore, Luca. Tolto il processore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rivetelo, vedete? 9,40 il segnale è arrivato qua. Allora, così è senza e così è con torcio. Sì, già c'è la musica. Portami un controllo così, Luca, in questa posizione. Ora. Stamattina sono proprio occupando una mazza, Guarda, vabbè, riprova. Guardami questo controllo. Ora. Ora. 9,30, quasi 9,40. Questo invece è normale mio, dai, io riesco così. Oh. 15. Tanto la 9,50, chi è? Vabbè, sì, no, mi sento leggermente saturino, comunque ho fatto la 9,30, quasi 9,40. Va bene, teniamo, se no ho fatto solo altro per vedere il conforto. Comunque, una bella bestia con il giocattolino, già si fa sentire Luca. E qua sei uno dei più furti di segnale, dai, non c'è da sbagliare. Adesso ammazza un po' di gente anche tu, dai. Ma io non l'ho fatto per ammazzare nessuno. L'ho fatto per non prendere colpi, ecco. Quello è interessante. Sì, mi devo spostare un paio di canali e non sottotrae nessuno, tranquillamente. Andiamo via. Ok, chi c'era poi su questo canale? Sono andato un attimino a rompere le scatole con l'altro baracchinetto. Comunque il microfono il migliore è quello che si è diretto, che si è anche andato meglio di tutti, ma è tornato lì l'M93. Attento Roberto. Anche non sei più il primo, adesso è Luca, number one è S Luca. Vabbè, non ha importanza. Vabbè, quando non attacca Bracco, perché se attacca Bracco qua ammazza tutti, non ce n'è per nessuno. Ah, noi parliamo di baracchini seri, di baracchini lisci, cosa attacchiamo, cosa attacchiamo, non c'è nulla da attaccare, no? No, certo, ma Luca arrivava uno dei più forti anche prima, dai, c'ha una bella posizione lui, gli altri fa sentire insieme a Mario Manso e sono i due più forti che arrivavano da quelle zone di basse, dai, tu sei vicino, non ci sono problemi. Ok, io faccio un attimino di bianco, dai, proseguite voi, dai. Chiappa di rocciola, avanti la sirene. Ecco il break. Franché, buonasera, ben ascoltato, ben scuzzolato. Buonasera anche a te, Massimiliano Bulldozer, e ben scuzzolato anche a te. Ah, raga. Tanto, non fai Natali di avanti, Natali. Ma sì, un altro usano, cazzo, una radio. Un malanchino. Come forte sei qua, vai, ti controllo, vai. In che senso le controlli? Il segnale 9,20, ma basta un segnale giusto, ecco. Il segnale 9,20, la radio è una bomba bella, ma la radio. Non so tu come mi stai ascoltando, vai. 10 minuti, no. Cavagara, tutto Roger. Avanti, Nata Laus e Nata Laus. Quelle X è avanti. E non la mettiamo a capo? Mira, Bianco, per me, riprendetevela. Ciao. Nel culo, dillo a me, che sto sedendo in macchina e te li do volentieri. Avanti, parlate in due. Sono stata a lì. Cavolo, tu comprendi? Comprendia. Ma sono lì che se te lo sono comprato, come faccio a far finta, scusami. Ma tu sei matto? Tu? Ehi, cacco una gana di bucca. Mi vedo che sai, scusami in macchina, mi. Occhio, hanno rompermi molto le palle. Oh, signor. Sapete qua che... A chi sei tra 10 minuti, Natale? Sono di là. Spinta, però. Che non risolvo una pezzetta, poi ci facciamo quattro chiacchiere. Tappa, quell'X per me. Sentiamo dopo se è mai alta. Ma almeno a tutti, buon divertimento. Ciao, ciao. Alza via, sei contro. Ciao, anche a me, anche a te. Non ti ho sentito a te. Guarda, perché non c'è la cosa, la famosa, se c'è la voce sta pure 20 e 5L2, non è che tu ne hai qualcuno, no? Guarda, che entro in radio tra, sono le 9 meno 6 minuti, verso le 9 e 10, non verso, alle 9 e 10 spaccate entro in radio. Devo fare cosa? Beh, ne parliamo. Ok, pronto è? Io vado, non c'è problema, va. Ma sono qua. Va, 9:10. 15 minuti di pausa per me. D'accordo. Avanti, qualcosa. Ciao, Bobo, è tardo. Sto bene? Più o meno sì. Più o meno sì. Dove stanno scemo con un barattino della vita, che non stanno scemo. Ma tutti questi vanno portando la mano bene e mi sono integrato, cazzo, è un casino trovato, cazzo, si sente che sto cercando loro, no, ce ne sono 50 modelli di questi, di LG 6120. Capito, non vanno bene, ma ancora per questa 4 canali. Tutti per il 40, insomma. Boronio! Ua! Ma ci vediamo, ascolta, abbiamo portato un baracchinetto che hai venduto tu qua a provare. Che baracchinone? Un Intec 390. 390, 340 sarà? 390, l'hai scritto. Che 390? Io non lo ricordo io, 390. No, almeno tu, io non lo ricordo, Guarda, ce n'è uno, l'ho venduto uno a Coso, a Carburo, e l'altro a un altro ragazzo. Ah, vuoi essere 90, 340, faccio la giovì. Vedi, inizia che 340 è, e ce l'ho qua. Ascolta, perché siccome l'altro giorno l'ho provato qua, e dice che c'aveva i canali di sopra, e invece non sa dove non so dove vanno quei canali. Allora Calburo c'è il canale di sotto, e invece l'altro c'è il canale di sotto. C'è 34 normali e 34 sotto. Capito? Mentre quello di Calburo c'ha il canale fino ad arrivare al 45. Lui non mi sembra che sul 20 o 21 normale, schiaccia il pulsantino e fa, capito, le 30, 31, 32, 33, 34, fino ad arrivare, non mi sembra che nel 35 corrisponde al 45, se non mi ricordo male. No, comunque io ho provato i canali di sotto e non ci vanno i canali di sotto. Sì, sì che ci va, proprio c'è lui ci va, quello che ci va. Allora io c'ho qualche rotto. Non c'è il baracchino rotto, perché non sono tutti i 40 cavalli sotto, ma sono gli altri 40 cavalli più sotto, capito? Cioè sono gli altri più sotto ancora? Ehi! Ah, quindi non sono i cavalli di sotto, sono un'altra volta sotto. Ma guarda la banda più sotto dei normali, niente di 40. Ah, ecco perché non riuscivo a capire dove andava. tutti. Ciao Carmuro, buonasera, me l'ha scocciolato. E uno l'ha sciolto, ce l'ho qua. Ah papà, lo sapete che ho fatto Carmuro il primo giorno che ho fatto Palattino? Che ho fatto modulare, e dice che ho fatto. Allora abbiamo fatto il secondo, poi diceva Cabo, il secondo, poi quando è diventato Cabo, lo faccio lui, poi mi dava il cervello, quello che ha fatto che deve portare a me, e mi dava l'amico mio, infatti ho fatto l'amico suo, io ho rimasto tutta, senza più quattro canali. Ma è tutto che sono appeso avanti, io vedrei, devo sapere, tutto che sono... capito? C'è un rovento se non tanto e c'è un circuito di amplificazione, c'è una specie di microfono, di amplificatore microfonico qui all'interno. Sì, già l'ho visto, ma è un momentaio, è proprio, lei ha già visto e mi ha già buttato in capo. Lo so, anche io quando l'ho fatto ho visto quella cosa, infatti non ho toccato niente, invece secondo la stessa cosa c'è, anzi non c'era tutto niente attaccato, a uno il figlio ho dovuto cercarmi e salvargli e sono riuscito a farlo funzionare, il secondo esce benissimo, è semplice, l'ho modificato io, invece questo qua, il primo l'ho modificato il pallone. Ciao Gala, ok, chi c'è? Falchetto e Gianni, se te l'ascolto, sì. Appa. Momo, buonasera. Oh, sono lontano, Buonasera a tutti, dai. C'è, aspetta, qualcuno ti ha sovramodulato, avanti che ha sovramodulato Antonio. Certo, sono rientrato. Ah, ok, Luca. Ma non mi lamentavo più che c'avevo la radio, che altra volta non te le conosco. Picca, sono giù a oggi. Che cosa vento per servire da oggi? Perché quando cambi il baracchino, vero cambi, quando cambiavi il baracchino, avevo la modulata diverso. No, il baracchino, io mi ci vuole là. Non uso quasi mai, Adesso vogliamo. Io sono rientrato comunque, il KP2 la quando l'avete fatto con lo scherzo l'avete distrutto già. Avete disdetti, non è vero. Beh, nel culto la moglie l'ha culto voce. Ah no. Guarda, con KP2 mi sono visto ieri, quindi. Non è né incazzato, né nulla. Siamo andati anche a mangiarci la pizza insieme, se lo vuoi sapere. No, lui già, non è un problema. Il problema è la consorte. Ho parlato anche con la moglie, non è per niente incazzata. Ha detto che da momento si fida ciecamente, quindi non ha problemi. Queste cose ha detto che lo fanno solo nel periodo prima della politica, penso per discriminarti e basta. Meno male, dai, meno male. Dai. Ma se vediamo, mi stai facendo sordo. La pupa piange di brutto, dai. Ripeto dopo, ciao a tutti. Ciao Massimiliano. Ciao Carburo, hai ben sentito? Nulla, sono entrato un po' alla confidata, poco fa, scusate tutti, e nulla, saluto tutti quanti quelli che ci sono in modulazione. Cappa, ciao Carburo, ma cosa stai mangiando? Non si sta mettendo in gomma. Ah, ecco, perché tutto sembra che abbia una patata in bocca. Calma! Puro, ma dove stai modulando tu? Io sono fermo alle carene, su vicino alle piscine. Vabbè, per quello sta arrivando così forte, pure troppo. Ma ti vediamo, faccia la radio, mi sono ben disoso, ha già detto. Dove Gianni? Cosa, la mia gara, siamo avanti a te. A me perché? Mi sei stato proprio entrando, avevo guardato un guardapareggio di quello che mi hanno fatto. Ero sul 40, stavo parlando con te, mi ha detto, ma ti vedo che hai provato a porta, un'ora già, già mi ha detto, già mi ha fatto ganare. Stavo parlando con Capo, lo guardo solo, poi io proprio sono andato, non ho visto, non c'era nessuno, è canale di basso, sono passato qua. Sto parlando col muro, cosa vuoi che ti dica? Va bene, dai, non c'è problema, non ti preoccupare, sto scherzando. Vediamo, Luca, facci sognare, facci sentire il giocattolo, dai. Guardi. Ehi, allora, mettiamo un po' di ordine, mi sembra un po' scompigliato questo canale oggi. Non mi sembra più quello della ciofra. Ma lo pongo io, lo metto in ordine io. Vabbè. Io avevo lato la toccare qua, sto a posto, dove l'ho lato. L'unica cosa che devo chiedere a Gianni, non lo ascolta, e poi Gianni fa girare agli altri. No, va bene, regolato bene, si sente bene. No problem. Falchetto. Beh, Gianni, ben sentito, buonasera. Buonasera anche a te, ben sentito, allora. Ti tieni conto, Gian? Ok, dite a Roberto che quando ti metterà anche tu il chivo davanti là sul tetto, la Mantova, sarei number one. E infatti, che dico, quando sarà, vedrai che uscirò anch'io 9,60, 9,70, 9,80. Ci ho rientrato? Cappa Massimo Iacchi, ho sentito, riprenditela. Anche io quando metterò il chivo te lo uscirò 200 dai occhi. Già va bene, dai, già va bene. Cazzo, c'era la pupa che c'era la viola. Ti vedi, abbassa la radio, mi stai facendo sordo. In che senso abbassare? Abbasso il microfono e la radio non posso toccare nulla, mi chiedi se posso chiudere. E mi chiedi, sei troppo forte, è esagerato. Quello americano. Cosa? Quello americano, è quello che ci aveva capito. No, negativo, questo è tornato abbinato con questo MB5, com'è? Bomba. Cosa devo fare, Robert? Dimmi. Abbassare il volume, se no ci rimane male il terpalo. Sei più forte del terpalo come radio, mi stai spaccando i timpani. Addirittura, aspetta, devo abbassare per un po'. Così ho abbassato un pochino il mic ieri, va bene? Ancora un pochettino sta parte mia. Cos'è un MB5 o più 4 qua? Vedi un po', vabbè. Cos'è un più 5 o più 4? Faccio un'idea. Un più 5. Ma dove stai abbassando tu, dall'apparato o dal microfono? No, dal microfono. Fai viceversa, tu puoi abbassare dall'apparato? Dove posso abbassare? Mi guarda. Allora, mi chiedi così dall'apparato a metà, vedi un po'. Abbassa ancora un po'. Aspetta un attimino, fa un passaggio un po' più lungo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. E devi ancora abbassare, abbassa ancora dall'apparato, non toccare il microfono, abbassa l'apparato. Allora lo usano dello tutto, no, così è tutto chiuso. Massimiliano, un po' come le no, cacchio, se lo chiudi tutto, Massimiliano. Guarda un po' così. Mi ha fatto cambiare il passo di microfoni, non la spera. Vabbè, guarda, vabbè. Prova a parlare. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cacchio, eri forte e poi di colpo ti sei ammutolito, vai stuccando. Ma lascia la copertina, lasciami via che andava. Nulla, stavo passando, mi chiedi dall'apparato come che stai dicendo tu, vabbè. Sì, ma di colpo questo è scomparso, cioè eri alto e poi di colpo non ti ho più sentito. Dai, rifai un altro passaggio e poi buffo. Guarda, va bene, allora così è alle ore 9. Per me è troppo forte, comunque va bene anche così, dai. Io sto facendo i livelli in modo che non saturi troppo, per quello. Un pochettino più basso dovresti abbassare. O almeno tenerti sempre la stessa distanza dal microfono, non so se ti stai avvicinando. No, sono a 50 centimetri, 60, più o meno quanto è lungo il braccio, là. Così va benissimo, non tocca nulla, va benissimo, dai. E non distorce neanche, se no è troppo di distorsione, dai. E così lo lascio, va bene? Va bene. benissimo. Ma è che troppo, eri troppo forte, cioè rispetto a tutti gli altri eri un po' esagerato. Segnalone era lui molto forte, tutto il resto va benissimo. Ora, niente da cerchi di Gianni. Eia, stavo temendo che ti facesse chiudere il tutto. Cava. Eia, dai, ma roba. Ma adesso anche lui è sistemato, va? Ti stavo dicendo già, ho visto un Ranger, un baracchino Ranger. Se tu lo vedi ti spaventi. Lo sai quante volte tira fuori quel baracchino? Il Ranger? Dì una potenza. Sarà 100 watt. 400 watt, è tutto un blocco di alluminio, non l'avevo mai visto, mi già. Se capita ti do il codice e te lo cerchi, è un blocco di alluminio, c'è tutto un pezzo unico di alluminio, e dentro c'è entrato il baracchino, c'è tutto, il baracchino è tutto un dissipatore, color argento, tira fuori 400 watt in banda laterale e 200 watt in AM, una bomba, se tu lo vedi, non l'avevo mai visto un baracchino del genere, è tutto un blocco, c'è tutto lo chassis, diciamo, la carcassa, è un blocco unico di alluminio, e c'è entrato dentro il codice. Infatti c'è scritto non toccare, è caldo, superficie è calda, tutto in giro. Ranger io l'ho già visto, c'è il microfono tipo militare, e rimane rustico come apparato, però che uscisse così forte non lo sapevo, è tipo il gas, così rimane. Già, sto parlando di un veicolare, non sto parlando di un coso, di un stazione base, no? Ah, di un veicolare. No, allora non lo conosco, allora non lo conosco proprio. No, io Ranger sì, l'ho visti, ma sempre di quelli da base, tipo il Galaxy, dai, così, cromato. No, poi c'è l'altra versione, 200 watt e poi c'è quello da 100 watt. E c'è quello classico che c'hanno molti, che rimane sul grigio scuro. Questo è tutto un blocco di alluminio, è una cosa mai vista. Ma infatti, stavo guardando una cosa, c'è tutta cosa che fa addosso. Allucinante, tu che vedi cosa c'è di dissipatore. Cioè, tutto, la carcassa è un dissipatore. E poi, dietro gli hanno messo un altro enorme, tipo, non so se l'hai visto come è fatto dietro il 440, una cosa del genere. Peserà, non so, 40 kg, un baracchino del genere. Una bestia. E poi ho visto il Saturn Echo Turbo da 150 watt. 100 watt da 150, il turbo da 100 watt. E vabbè. No, lo so, non è uguale al mio, solo che c'è tasta, non c'è altro. Il turbo, riconosce tutti quanti. Ma questo Ranger cos'è? Di vecchia data oppure è nuovo modello? Perché hanno fatto anche, te l'ho detto, che hanno fatto anche, come si chiama, non mi viene adesso, non mi viene, no. Vabbè, comunque hanno fatto un apparato di quelli che erano vecchi, adesso hanno fatto un nuovo modello con frequenzimetro, con tutto quanto azzurro, ben bello. Ma questo è col frequenzimetro, fa da 26 a 32, poi c'è un altro che lo fa da coso, sempre da Ranger, però questo è nuovo, un negozio che lo vende, costa 462 euro, quello c'ha 200 watt, 100 in AM e 200 in banda laterale, e come si chiama? Cosa c'ha quello lì? Aspetta, di diverso. No, ma quello da 400 watt non l'avevo mai visto, è totalmente diverso da tutti gli altri. Quello che questo qui fa da 25 a 32 addirittura, quello che si toglie a continua, quest'altro da 200 watt. Però è nuovo, una ditta, non mi ricordo dove sia, se Bassa Italia comunque, zona di Bassa Italia, mi sembra Campania o cosa del genere. Questo da 200, però quello da 400 non l'avevo mai visto. E vabbè, ma io mi sono ordinato adesso un alimentatore e spesso non ne faccio altro. No, ma poi sono troppo estremi, dai, sono rompono le scatole basse degli apparati. No, ma io stavo dicendo, infatti ho detto c'è anche un baracchino, io il massimo che ho visto 100 watt in un baracchino, ma 400 watt in banda laterale, poi infatti c'erano altre fotografie, ho detto come cazzo fa a dissipare tutta quella potenza, è tutto un blocco di alluminio, cioè tutta la carcassa non è, come si chiama, il lamierino, è tutto un affare in alluminio grosso. Deve essere bellino, di quelli da sfilare, ho capito, di quelli che sono incastonati all'interno, da sfilare, esce tutto quanto interno. Vabbè, sì, dimmi ma sfilare. Vabbè, tutto questo veicolare, tutta questa carcassa con macchina, non te ne muri. Se te lo metti vicino al cruscotto te lo sciuglie. Magari non dico che arrivi a 100 gradi, magari arriva a 60 gradi, magari a solo il tipo scotto non ce la fa, però è una cosa allucinante, la paura. Poi l'avete anche a Vigilio Vulcano, non l'avevo mai. mai visto dalla 48 a comandi vocali, mai visti la vette? No, io non l'ho mai visto. Quello di costa usato, modificato da questo tipo, si chiama Leo di Monza, 450 euro lo sta dando questo tipo, e lei ha comandi vocali, la modifica si attiva, c'è un microfonino separato e lo comandi da lì. No, vabbè, io ho visto già il telecomando che si attiva la modifica o a calamita, come a calamita ormai è già una cosa un po' vecchiotta, a telecomando e poi così a vocale, però ancora non l'ho mai visto, forse perché qua in Sardegna non so se ne abbiamo altre. Vabbè, già lo so, infatti, ma sono già esagerazioni di fiducia, sono di nevare. Allora, questo raggio era una bestia, ma è impressionata perché era allucinante. Anche se dico già, il più bello di tutti, il baracchino numero uno, secondo me, Superstar 3409 di X, e che lo fa uguale identico la Sabo, preciso identico. Quello è il baracchino più bello che c'è, però si torna continua quello. Sì, anche il Gobra e la signora Fruzzi. No, se vedi questo, Massimiliano, no, tu dici non ce n'è per nessuno, è una cosa allucinante. È tipo, cioè c'ha più funzioni di un 440, se tu lo vedi, cosa c'ha di tastiere, di tastini allucinanti? Lì poi la frequenza c'ha, la tastiera, gli scrivi anche la frequenza e ti appare direttamente. Comunque il 3009, dai, stavo, non mi ricordavo, il 3009, come si chiama, hai detto quello che dici tu? No, quello che dico io è il 4009 di X, che lo fa anche la Sabo, sono precisi identici. Uno è marchiato Superstar e l'altro Sabo, che fa apparati anche professionali la Sabo. Quanto costa questo Ranger che hai visto tu veicolare? Non lo so, no, non c'è il prezzo. Quello da 204 costa 462 o 467 in una ditta. Due anni di garanzia c'ha. Ma in che sito è? Non me lo ricordo, perché l'ho trovato per sbaglio, stavo guardando una cosa, mi sembra Centro CB, una cosa del genere, un negozio. Pagava. Dai, c'è Antonio un po' in parcheggio, Antonio, dai. No, ma... Dici, la sono belli già. Avevo visto il 3009, che... È una bomba, come apparecchio. Aga... quanto sta la registrazione, dovrebbe uscire un bel bene, lo fa la Magnum, lo fa. La Magnum fa anche l'SSI, non so se l'avete visto, l'S2 e l'SSI di baracchino. Io non l'ho visto. L'S9 ce l'ha lateralmente il comando del microfono, l'SSI ce l'ha davanti, c'ha un paio di tasti in meno, ma è molto simile all'S9 comunque, si assomiglia parecchio. Va bene, va bene. Vabbè, ma sono baracchini, qui bisogna comprare i cable, non baracchini. 980 c'è della Magnum, ma adesso vai a guardartelo. Il 980? K. E vabbè, su che sito è? E tu metti il motore di ricerca Magnum 980 e ti presenta l'apparecchio. Ma quello con 150 watt? 75. No, adesso mi stavo confondendo, perché c'è quello, Giovanni Originale, che c'ha, il suo c'ha 100 watt, così di portante bianca, e modulati 150 o 160. C'è il computer acceso adesso di voi? Cosa? Chi è che c'ha il computer acceso a portata di mano? No, io ce l'ho acceso, ma sono il computer è dentro. Anche per me. No, se non ti guardavi quello che ti dico io, il Superstar 4009, e mi dite se me lo vuoi baracchino. Vabbè, non si può chiamare baracchino, chi è enorme, una cosa spettacolare. Ehi, sempre baracchino, Sì, ma è come che sia un HF, è a sintonia continua quello lì, più c'ha le memorie e tipo sti canali, però vai in sintonia continua con quello. Quello che fa lui lo fanno anche gli altri, basta girare. Girare cosa? Cioè, non giri nulla con l'altro. Questo qua è tipo un cable, preciso identico. In più c'è la tastiera, gli scrivi la frequenza e ti appare. Che avanti, ciao Adriano. Una stamattina, scusate, Antonio, ci sei? Non la so fa. Ehi capo, ti puoi portare sul 40 per quel QPC che mi avevi fare gatta. Questa letta... Ho messo su 40, 17, 405, ciao ciao. Ciao, buona questione, avanti, Massimiliano. Ma cosa, andiamo, ancora ci sei sentito. Buona questione, grazie a te, ciao ciao. informazione, già arrivo subito. Greco. Greco. Ciao, ciao Yogi. Yogi. Yogi, ciao Yogi, ciao, è l'amico di Carburo, quello che conosci tu del resto. Ciao, no, sì, va. Ma Giovanni. Certo. Ah? Papa. Beh, ciao, lo so Yogi. Com'è? Tutto a posto? Io ho fatto danno. Guarda, l'hai levato. Bruciato. Camaretto, guarda. Ma Puglio, ci sei? Praticamente, no, stavo facendo le prove, l'ho trovato dal cuglio, era rotto. Ma che è l'ultimo negativo. E che ha pagato. Vabbè. Pompone è passato sul 40. Io ho andato a controllarmelo. Ehi, ehi, giù. Perché non ti si scopre di nuovo? La cosa mi va così la mattina. No, ho capito, ho capito. Ah, sei basso basso, dove sei? Già, tu come lo senti? Ma io bene, avanti Giovanni. Come segni? Senza le segni, Massimiliano. Io qua l'ascolto, proprio sono in cuffia, mi sono messo con le cuffie e non l'ascolto. C'è segnale, capito? Non ha segnale, lo sto ascoltando solo di radio. Prova Giovanni, perché non mi arrivi a me. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Santiago, Radio 5. Non so che dire, non so che dire. Magari è problema di antenna. No, è la zona magari che non è favorevole. O in un punto che è più favorevole per me che per te. Oh già, ma stai scherzando. Tanto voi, per Paolo, tu dalla tua macchina qua mi arrivi 9,5 da... 9,95 da mettere il segno, ma buffolendo sì. E che antenna c'ha Giovanni? Non lo so. Stavo usando una mezzometro. Mezzometro, vanno. Prometti che se li attacca... Ti ricordi già quell'antenna nera che c'avevo io con la frusta? Eia. Quella hai visto, da Alghero sparava a me. Cappa. Cosa vai? Facciamo un carburo, chiamando un attimo impegnato. Comunque l'antenna è nato con il quindi per il caravan, lunga di te. Eia. Oh ragazzo, dai, io devo fare un po' di bianco qua, che è arrivata gente. Ci sentiamo, buonanotte a tutti. Correti per me, dai. Ciao, ciao, Massimilia. Corretto. Non si sente né per Paolo né Antonio, ci sia, avanti. Io sono qua. Cava. Allora, ma sta parlando qualcuno già? Qua. Un attimo. Attenzione Antonio, scusate ma stavo parlando con mia moglie. No, credo che ce l'è qualcuno sotto. No, negativo. Non mi stava dicendo qualcosa a mia moglie. Pure Giuseppe stasera non c'è. Ma Giuseppe ha un po' disertato in questi giorni, probabilmente è stanco. Capo. Una volta alla settimana so che manca sempre, ma adesso è già due volte. Ma manca sempre. Se ne accorgi manca sempre. Non ci ho fatto caso, io non guardo queste cose. No, mi sono accorto che manca più ieri o ieri. Non lo so, magari ha cosa da fare, ha qualcosa di più importante, non lo so. No, vabbè, dai. Forse avrà cosettine da fare. Vabbè, già siamo sempre qui, non c'è problema. Falchetto. Falchetto, ci sei. Falchetto è capo. Ma come ti è andata la sarebbe? Ma vuol dire fammi dei tassi, non mi ricordo perché cos'ha, delle antenne dei tassi e cose. E io gli ho detto che c'erano i torni dentro, fucile, cile. Scusate, così e ho detto perché ne ho caricati sui tassi. Gianni, eia. Ma allora, quanto un attimino. Aspetta. male che sono quelli. Poi facciamo le regolazioni. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 60, 80, 90. Se no, va in 30, radio 5. Radio 5. Ah, vai. Ah, vai. Non mi segna, segna così. Così. Io come ti sto arrivando lì? Vai già. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9, 3, 5, appicchi positivi, quasi 40, vai. K. Vabbè, vabbè. Vabbè, magari così anche un po' faro, lo smetto, non lo so, non lo so. Ma 9.30, noi siamo 9.30 che sto dicendo. Comunque va bene, è regolato bene, è giusto, eh. Ok, dai, chi ci è rimasto qua? Ci siamo io e Antonio. Poi ho chiamato Falchetto, non risponde, se c'è qualcun altro si faccia avanti. Aspetta, già ho capito un cacchio, dimmi, puoi ripetere, c'è un volume basso. No, no, ho detto se c'è qualcun altro si faccia avanti, siamo io e Antonio e basta. Ma che affa, allora aspetta, ho preso una cosa, ma attacco dietro. La posso attaccare indietro, puoi mettere la cassa grande, ormai con un po' spinotto. Ho attaccato la cassa grande, così è meglio. Fa gaffa, fa gaffa. Ma comunque, ascolta, quelli, quei campi dell'alimentazione, tutti e due gli hai messo il fusibile. Allora, dopo di 51. Non so, ce l'ho avuto anche io. Via io. Ma la torre nuova, quello che nuovo fuori, già. Ma parecchio, bello, bello. Va bene, ma posso dire che sono contento perché mi sono fatto le colpe né niente. Anzi, presumo di farli. Non ci può abbastanza a golpi. Adesso iniziamo a fare prima con radio, guarda. Mettiamo il computer a parte. Uno fa la brava, finisce come dico io. I colpi li prende lo stesso il 140, Luca. Fida. Sono convinto. Antonio! Dai, dammi il segnale, vai come arrivo. Come il 20 si è radio super. La radio 5, vai. Comunque in avvicinanza non c'è nulla da fare, secondo me li svigli. Tu scusa, ho capito. Secondo me in avvicinanza non ci sta nulla da fare, li prendi sempre. Posso? Nel mio si ricevevano gli splatter, dico la verità. Io ho avuto così, 140, l'ho tenuto pochissimo, ma l'ho avuto. L'ho avuto e prendeva splatter e quando c'erano segnali molto grossi di splatter me li davano, non c'è problema. Attenuati non li sentivo, ma diciamo che gli splatter li prende sempre, diciamo magari in modo più leggero. Chi più chi meno tutte le radio le prendono. La cosa più tragica è quando prende battimenti. Lì c'è la cosa più tragica. Pagava. Poi vabbè, già uno si destriglia, si regola l'apparecchio in modo come facevo io, abbassavo le fegine e via, io non l'avevo tutto. No, ma quello lì magari se c'è, come questi apparecchi qua anche, se c'è vicino senti ma alla fine non ti danno fastidio, è brutto che andate stato di muto. Come la 48 o quello normale. La più brutta cosa è quello perché non capisci proprio niente. Sta zitto e boh. A meno che non ci sia qualcuno forte. Quello è battibetto zero proprio. No, a me del plus e dell'altro me lo fanno. Tu se non te lo fa? No, no. Perché è una diversa concezione, come questo qua. Manco. Sì, se c'è qualcuno vicino lo sento che fa un po' di casino, eccetera, eccetera. Però battimenti non è niente. Sento a te e basta. Pagà. E vabbè si parla di gente vicina, gente lontana non è prende. Ma quando si mettono vicino a parlare con apparecchi grossi e cose, per forza che un po' di splatter se li dà. Quello senza ombra di dubbio. Quello senza ombra di dubbio, te lo va sempre. Che va, cosa che dici? Luca se deve avere un altro canale, sicuramente mi splattera. È normale, è normalissimo già. Ma le antenne ci vedono, capito, sono vicine. Sì, ma è una cosa normale, mi splattera sì. Ma magari se c'è uno che porta e senti a lui e basta. Anche se uno ti arriva di potenza, senti a lui, magari lo paga anche il laterale, però non lo sento. Paga, paga. Avanti, se c'è qualcuno che vuole fare su lui, su lui. Non è nata lui. Che settimana strana, che sempre piovendo, sempre piovendo. A te ci ha fatto bel tempo. A me si è fatto un nuvolato stasera. Dai, io sto aspettando un giorno per andarmene a pescare. Non riesco a trovarlo, non mi sto nemmeno pulendo le canne perché tanto non mi dà di gusto. Se non viene la giornata giusta, non me le lavo le canne. Certo, e beh, bisogna essere anche pronti. E ci vuole poco, un po' di CRC, lavo i mulinelli con l'acqua. L'acqua corrente, lo metto nella vasca con la doccia, li lavo e poi li metto il CRC all'interno e fatto io. E già ci vuole poco, però è sempre Lucia, cosa fai? Appaga. È tempo strano, ma tanto sono andato stamattina e quel bricolo che hanno aperto i saldutti non vetti belli. Ma mano però, mano. Tu pensa che vedo roba per edilizia, mattonelle, cemento, c'è la gente caricata sui mattoni che sta pedale. Più malati sono. Se mi hanno detto le cammini che costano anche 3.000 euro, li stanno dando 1.000, 1.100. E vai, vai. Due cosettine così, che hai detto vai, vai. Ma poi alla fine altre dieci, le altre cose sono la stessa cosa. Che hai detto vai, vai. Vai che sei un brigante, vai. Questo qui è zio principe. Tu sei un brigantino, vai, vai, buonasera a tutti. Buonasera, sera, sera. Allora, come vai oggi a Tattari? Ero un po' di servizio stamattina per le ferrovie. E oggi, stasera domani, sono libero, quindi sono a casa. Cava, cava, cava. Meno male, si è ripiazzato qualcosa. Sto tentando, capito, di sistemare tutto. Cioè, c'è un po' di roba, però devo trovare il punto giusto perché devo fare due mensolini, devo fare una specie di appoggio a roba, chiamiamolo così. Io vabbè, dai, ti organizzi piano. Ti volevo dire, basta che ti metti un apparecchio serio e un'antenna, stai andando, dai. Ehi, soltanto Sierra, ti aspetta, non ti basta. E allora va bene. Insomma che pesa un pochino e quindi devo trovare il punto giusto. Poi c'ho un altro po' di roba, lo sai, devo sistemarmela. Appagato. E vabbè, piano piano, dai. Tanto adesso le ruote sono tranquille, dai. Non c'è nessun problema. Rogero, avanti amico. Buonasera, chi c'è Stefano se non sbaglio? Rogero. Ragazzi, sono pure che hai sentito. Che abbiamo sentito? Sì, già, ne devo cambiare l'antenna perché questa qui si è un pochino usurata, diciamo, un po' ne sta cadendo a pezzi. Ho trovato una caglia di una Mantova 1 e una Mantova Turbo. No, Mantova 5 e Mantova 1, però non so quale prendere. Guarda, sono tutti e due buoni, sono la stessa, perlomeno, sono più o meno uguali. La 1 costa meno quasi sempre, la 5 costa di più. però ti dirò, io ce l'ho e mi va benissimo, io ti posso consigliare quella, però c'è gente che ce l'ha uno, dice che va bene anche la 1. La 1 diciamo che è meno recente, la 5 è più evoluta come antenna, non c'è radiale in più. Quindi non cambia tantissimo già. Non cambia nulla, l'antenna è sempre con la 5 ottavi. Diciamo che la turbo che non ti consiglio perché c'è radiali in alluminio. E dici come c'è le corracci attani e spiccano il ruolo, ti spacca le radiali, invece queste qua sono elettrorisia. E infatti, da me sono sferrato per qualche motivo lì, perché c'è un sacco di corrai che vicino a me mi hanno tutto rotto di tutte le appizzicio. E a me lo stai dicendo, ci sono dei cani e li mettono da mangiare, dei cani da andare, li mettono da mangiare invece di mangiare i cani mangiano le cornacchie, quindi stanno sempre lì vicino a casa. Cornacchie e piccioni mi hanno attirato adesso. A me si trova, devi vedere cosa, si trova a mangiare il gatto, guarda. Eia, sono voraci, sono uccelli voraci, li ho visti l'altro giorno, facevano schifo, stavano mangiando le budella di un gatto che avevano schiacciato con una mano. Fanno schifo. Vabbè, ciao, vado un attimino dentro a bere qualcosa, ci sentiamo fra un po', per riprendere l'amico. Ciao, ma comunque mi sono dimenticato Antonio Bombolo da questa parte. Roger Bombolo, va bene, d'accordo. Mi sento un attimino, rientro subito, ci riprendi. Non c'è problema. Riprendo io. Anto, è così. Adesso si è deciso a prendersi qualche cosa, Stefano pure il sabato entra, ma almeno ci fa compagnia. Avanti. Bulla. No, per Pablo, hai sentito? Ciao, ci sono già salutati. Ma eravamo un po' così. Io stavo tentennando. E lo sai che lo è. No, io sono sempre qua, ascolto. E appaga, appaga. Mi stavo facendo ascolto anch'io. Però voglio starmene tranquillo. Infatti oggi mi sembra che il canale sia il solito canale, c'è un fraiolo, c'è un po' di dispersione. Lo so. Vabbè, cos'è perché te lo piscio, c'è qualche cosa che non va. Vabbè. Vabbè, voglio rimanere in moscia. E infatti anche Stefano Principe mi è andato a pensare una cosa, adesso. Ma ogni tanto né K2 né Coso né Giuseppe che solitamente entrano, ma è strano. Vuol dire che sono a riposo, c'è una gente. Infatti, K2 chi si? Ma come K2 non c'è niente? Eravamo con lui ieri tranquillamente, ci abbiamo mangiato la pizza insieme e cose. Cosa strana, ma vera non ce l'ha fatta mangiarsela, lo sai. No, vero. Dove ti vai? Aspetta che era pieno, non ce la faceva più, che era proprio pieno. Ma sì, ho sboccongelato prima. magari ce l'ha tolto prima, eh. Vagà. Ah, comunque le fa molto buone, il fratello di Savio, le pizze. Molto, molto buone. Veramente buone. Ho mangiato una pizza che si chiama Mare e Monti ed era fatta con i calamari e con le antuna, ma una delizia. Sarà, ma glielo sai a me, più che al solito riesco a togliermi. Che io, ma siccome non c'era frutti di mare, ma l'acqua si piazza la cognata di Savilla, ho detto prenditi questa qui che è molto buona. Ho preso quella e non me ne sono pentito, veramente è una buona pizza. Cavallo, giro. Io delle volte per non cambiare, magari trovarmi male, vado sempre sul sicuro e prendo sempre la adesso. E anche io sono come te. Anche io. Non sono. Ma no, ti dirò che questa qua non dispiaceva. Buongiorno, lo suggeriamo. Tra Mari e Mari. Buongiorno, ci andiamo. Anzi, ci andiamo domenica, cosa ne dici? Domenica non posso. Non puoi, puoi. Gappa, gappa, gappa. Perché domenica c'è anche il karaoke, no? Ecco, allora per quello non ci vado. Perché? Perché non ci vado, se c'è karaoke non ci vado. Non mica devi cantare per forza, no? Canta chi vuole. No, vabbè, ma no. Non ci vado, oh, dove c'è karaoke non ci vado. Lì c'è il campo strano che mi piace. E allora, se hai detto che non canti mai, cosa ci vuoi a fare? Ma certo se non canta, a me piace anche sentire gli altri cantare. Però già canto, a squarciagola anche, solo che non canta al microfono. Allora ti faccio cantare io se vuoi, No, no. A squarciagola canto io, però l'interessante è che non mi dia il microfono per cantare. Troppo il tre karaoke, cazzo domani che non ricordo, che mi devono portare la... La versione aggiornata fino adesso di cosa, eh? Di quale? Di... Di Van Basso? Sì, del karaoke. Ne avevo 1500 di canzoni, del karaoke. Poi adesso ha riformattato tutto e qualche cosa l'abbiamo eliminata, che era troppo pesante, è scaricato troppe fotografie, troppa roba. Quando è così, alla fine, il computer non aveva mai più a camminare. Sì, ma già, ma la versione che c'ho io c'ho più di 30.000 canzoni. Quello che mi devo dare, mi devono più, come pare che faccia, più di 100.000 brani. Non te l'entrasse la memoria. Intrasse la memoria? Ciao, 512 GB, figurati, è compresa. È compresa in coso, come cazzo si chiama, in... telefono compresa, no? Sì, PC. No, mini. Gabba. No, già è... Direi di lui, se lo usa molto Manuela. Manuela si mette, si prende il microfono, accende il karaoke e canta col microfono e col karaoke nostro, capito? Di modo che si guarda le canzoni e col karaoke nostro canto. Ma quello è cosa è su dischetto, No, c'ha proprio il programma. Ma masco, Ah, capo. E questa che mi devono portare la versione aggiornata tutto adesso. Cazzo ci sono... Appunto sono come mi pare... Adesso è un mega e qualche cosa in mili. E poi c'è quasi un altro mega in MP3. Sempre karaoke. E poi lo passo a chiamare così ve lo metto anch'io. E pensa che è tutto dentro una penna, eh? Ah, nella penna, non nel dischetto. No, beh, il dischetto, perché tu c'hai il karaoke a dischetto. Via. Non funziona, no? Lo so. Vabbè, no, io non ero, quando l'ho comprato io, non era aggiornato. Adesso c'ha tutto, c'ha CD e penna. E capo, vabbè, comunque chi fa il karaoke usa il computer. Io lo so, usa Van Basco, perché l'ho visto io nello schermo che compare sempre Van Basco. Sì, è bello, più usato, che è pure esagerato comunque. Sì, già lo so, ma quello più diffuso è quello. Ma ci sono delle belle canzoni, anzi. Poi è fatto in ordine alfabetico, c'è chi ha, Alex Britti, Alessia, capito? Ti rimette tutti quanti in ordine alfabetico. Capo, no, c'è la vecchia, c'è una penna. È una penna nel dischetto, adesso il dischetto non fa molto. Infatti c'è una penna e una velocità allucinante nella penna. E adesso che mi devo dare stesso nella penna. Appaga. E già è buono. Già è buono. Tu accanti a casa. Io canto sempre già. Capito? Certo. anch'io prima cantavo un bel, ma adesso di me. Prima lo usavo anche io Van Vasco, mettevo le cuffie e il microfono del coso. Le cuffie col microfono attaccato, dai, cantavo. Ma io non ci viene nessuno che ha rotto le mie palle. E poi io gli do anche gas. Oh. A voglia. Vabbè, mi piace un bel cantare, perché quando d'inverno lo facevamo io, mia moglie, e il bambino Emanuela, ci divertivamo un bel, ne cantavamo una per uno e via, e poi ci siamo tagliato le ali, perché siamo di quelli di giù, che le figlie devono studiare, che qualche altro, sono le 5. Secondo me sono di già di zinco, non ho capito qui, nell'orario condominiale io, fino a una certa ora posso fare ciò che mi pare, non è che posso, non lo stavo manco cantando ad alta voce. Comunque ci ha rovinato le uova le padine dal giorno dal malumore che ci è venuto, perché era una giornata piovosa, non si poteva uscire nulla, siamo richiusi in casa e ci stavamo divertendo così per intrattenerci. Questa qui ci ha rotto le uova nel paniere. Dal giorno non sai che il karaoke è rimasto fermo lì, non l'ho più toccato. Ricco! Avanti capri! Buonasera a tutti i saluttoni, a tutti gli amici, su canale 21. Abbracciamo capri 2, stai scendo tutto a fischi, a fiaschi e a grida. C'è Pierpaolo e Antonio Bobbo, là in compagnia mia, avanti. Capri 2, cerca di regolare il microfono per... Te lo ricordi quale ha messo nella sua? Meno me. Poco la farla apri due. Sì, già, e fa un pochettino rosso la posso essere. Se ripeto il mio consiglio, metti tutti in vetrina e prendere uno nuovo. No, è da voler apparato, cioè, è quella di Gino che mi incanta la... Oh. Paga. No, a parte gli scherzi che ho preso. Stanno tutti andando... Come li stai usando? Si stanno tutti deteriorando, perché probabilmente sono consumati al limite. E lo sai come quelle donne che tu le anche usi già, te le fai belle, tutte quante, poi piano piano, non c'è prima, prima che lo cazzi. Vabbè, magari pure sembra fare di medico, come ne si può dare da su se c'è la zappa da cacciucchia. Vabbè. Sì, che parini. Ah, ma allora tu risvolti con la porchetta. Perdere. Ok, se non ti devo tirare sulla radio, ok, questo non fa vita perché se cosa che un giorno mi spiegherò. Ok, la paio oggi è stata già. E a cena, ce ne sarà una tavoletta. Perché è venuto la diamantone a farsi i capelli stasera, che viene sempre a muro e ha partecipato a quella telefonata famosa e ricevuto un speriamo che si possa arrivare a Chieti, perché sta compromettendo a tutti. Vabbè. Appaga. Principe, sei rientrato qua. Come parli che principe è? O sei gufato? O non la gara di entrare? Vabbè, riprendi a tutti. Gaffa. Forse ho capito bene quel messaggio che ho fatto, ragazzi. C'è Stefano Bianchi. Ma c'era Stefano Pietro che andava bene e poi non è più entrato. Ecco piatto. E ho pagato, ripeti per qua. Fondo rotto la stasera, eh. Ragazzi, svegliamoci. Ma io sono qua, Capri due, io più pimpante ti voglio. Dammi, questo è più pimpante però, se ne state in contatto si incolla la scelta, non lo so perché. E come tu so, per la tua sei in qualche durata del re perché torna indietro. Copiato, hai Gianni non ha copiato. E tu quella RF mi torna indietro. scusate, la cellulare. Mi dispiace, l'avevo sentito. Ho detto Giuseppe non è entrato stasera. No, negativo, Giuseppe probabilmente è stanco, ha fatto chilometri, roba del genere, è stanco. Ok, niente. Sono stato in assenza, non mando, non lo so. Ok, ho provato anche a chiamare, non ho risposto. Scusate, però. Ognuno sa di sé e vede quando può farlo. Io sto di dice solo che adesso magari se c'è bel tempo uno ne può anche approfittare, ma se tu hai altri problemi è meglio che ti sbrighi i tuoi problemi, magari che sono più urgenti di quello lì, è normale, si dà la priorità alle cose, no? Avanti per qua. Carta positiva si conferma, prima le cose, poi diritti, poi la radio piano piano si fa. Infatti è questo, per qualche problema, se vuole che vi ascolto, un piacere comincia di ascoltarvi, ormai siete diventati per me come di famiglia, e ogni serata dovete venire al mio QTH con la radio, perché dopo che vi dico le cose salgo qui a centro per scambiare quattro chiacchiere. Comunque già mi ha la 50, vedo che le difese erano molto buone, molto carine, ma per lasciare abbiamo un attimino di capito di senso con la famiglia, perché meritano veramente di essere, capito, assaggiate, di attaccare un po' con calma, di attenermi qualche minuto in più di come mi sono detto ieri. E a quella Mario Monti che ho preso la squisita, già. Quella Mario Monti con gli Antunna e Calamari era una favola. Sì, io già non è che sono un maglione di pizza, però ieri ho anche il disposto di mangiare, perché molte volte mangio, ho capito, quindi non digerisco, sono digestivamente, quindi non è, diciamo, che però era buona, ben cotta, gli ho dato 10, gli ho dato. Era molto buono, no? Anche io lo... se li può portare un po' di amici di cosa fallo, già, che così lo facciamo lavorare. A me guarda già, sono alla mano io se c'è gente, però non dico mai che lo mando io, perché come stanno parlando c'è anche questo del mio paese, quindi hai improvvisato una cosa, lui fa il muratore, hai improvvisato questi pasticci che vabbè niente ci è andata, però le pizze non le sa fare qui, là. Però io chiamando gente, guardatela, non fate il nome che vi ho mandato io, però andate che si mangia bene. Magà. Ehi, Savio lo sapeva già stamattina, gli ha mandato il messaggio che siamo andati. Io che capito una cosa che diciamo già improvvisata, abbiamo saputo andato bene, perché non è, me ne volevo uscire anche per visitarmi da certe cose. Ieri sera sembra che mi ha mandato, diciamo, qualche angelo a telefonarmi, a farmi, hai capito, andare lì. Comunque ti darò un altro numero qui là del cellulare, già, perché quel numero c'erano proprio persone e lo voglio cambiare anche, hai capito, lo darò solo a persone e di mia fiducia, c'erano proprio persone, capito, era diventata una cosa e la scheda unico, io anche in scala ti darò un altro numero. Kappa. Buongiorno, andiamo anche noi a mangiare quelle pizze, eh? Sì, è andata improvvisata, però ho chiesto di te, di Giuseppe, capito? E non lo so, non è stato improvvisata così che mi ha fatto anche piacere, perché ero anche un pochettino più di morale, però poi quando vedo le persone, hai capito che sei con di essere amiche, mi passa subito. Le cose per parlare, che non posso parlare per questa, con la 50 sono successe delle cose, guarda, è proprio male, male, da cos'è, a se scopo c'è una cosa, guarda, però cosa mi anche dare con una scema che non è neanche di qui, guarda, che crea dei casini a tutti, capito, ci siamo cascati anche noi, perché sui paesi di Pitola, però per altre cose, in alcuni da quando erano piccoli ragazzi, cosa fine, a ognuno le crea la sua, su cui ve lo chiedono il verticale, cosa è successo, però nonostante tutto riesco a affrontare la situazione, capito, non volevo dire niente di questo, ripeti già. Io non lo dico però, è piano piano si risente. Calpa, io capisco un po' stato d'animo, era voglia di espellere. per quello che senti dentro, ma è meglio non parlarne qua. Che qua ci sono troppi orecchi di ascoltoni. Vabbè, capito. Già, dopo il coso, dopo il temporale viene anche il sole, no? Sì, immagino io, me ne ritrovo già queste cose, no, ma non è che io sono uno dei tanti, come ha fatto altri Gianluzzi, al marito, agli amanti, alle cose, e io e mia moglie, perché con mia moglie purtroppo da tanto tempo fa per i ragazzi quando erano grosse, più grandi, una volta, niente, ho fatto ragazzi, si è attaccato sempre con me, e con tutti e questa pippa è. Non posso dire, non è una cosa, è una cosa che ha detto perfettamente ragione, però hai capito, me lo devo dimenticare. Ma quello là non c'entra nulla? No, niente, già me lo posso anche dire, tanto non è ancora questa tipa, che era sposata, mi lui si è abitare, e ha avuto anche una figlia, quando era piccolo Fabio, si era con la sua figlia, il primo marito. Io caso gli hanno avuto due figli, questa bambina quando lo Fabio già era piccolo, il nato non c'è attaccato odio e me ne crea assieme, poi è andata a vera pura, non ci si è andata anche con questa donna di frente, se lo sai di la fila, ha dedicato con tutti, ha denunciato un sacco di persone per le cancellate, perché sta cercando sempre soldi per campare, e poi nel 2008 già me ne è venuta, diciamo, perché c'è sempre ancora. Però la porta con mia moglie con Claudio e passata a segnare la moglie, ha spuntato per terra, non mi ha dato la seconda, ha spuntato e mi ha messo il fuoco, la cassa in carbonate che ha portato vento, pensando che mi mettevo le mani, quella con questa crocchetta che ha trovato di usci, di marco, con quelli di quelli che secca, questo mi ha fatto il campanello già con l'insistenza, che mi schiacciava dentro casa mia. E sono riuscito a buttarselo e mia moglie di domani ha fatto la denuncia, non l'ho fatta perdere, non l'ho neanche denunciata, ha denunciato lei, già non è questa cosa fatto, ha denunciato lei, una cosa di denuncia che mia moglie ha fatto per una puntata, mi aveva fatto una cosa di andare e capito mia moglie che le ha detto così a lei, no, lei è stata mia moglie e tutte queste belle cose per rifarsi della denuncia che mi ha fatto. Perché era troppo poco, già che io sono, di fronte al coso, uno viene mi scusa, giusto, ma è un palazzo meno, a uno della polizia penitenziaria è arrivato fuori, non so che cosa, è vero, sai che non so che non mi ha servito, con un sacco di gente già, la conosco non va tutte le parti, io mi devo risolvere questa cosa adesso. Perché era carista la gente? Se basta, tanto la conosco dei carabinieri, no? Se è di quelli, di quelle persone lì la conosco. No, è di qui, di Sassari, perché guarda, ne ha fatto di cose, un libro si può scrivere, però io, diciamo, non gli ho trattato mai l'ancora, io ho subito le due mandare queste cose, cioè non gli ho attaccato mai, io ero presentato con la mia famiglia, ma se la stavo macchiando, però non giuro di auto, con un ragazzo, eravamo appena rientrati dalla passeggiata adesso con San Cresto, se lo spiegate niente, è stata questa cosa, avanti, già niente, ma noi ci abbiamo, hai capito quando dall'avvocato, il titolo che c'è stato, non è un problema, però la cosa che mi hanno fatto fatti manda a fila, quando bene, basta. Come ti stavo dicendo, ho capito, ma fu di dire già una cosa risolvibile, non è una cosa da incriminare, quella lì. Bisogna che abbia anche testimoni per dire che tua moglie ha detto quelle cose. Non è così, non vuol dire che la tua parola contro la sua. No, ti ha messo questo che mi ha aggredito in casa, che era con lei, che non sfrutta, non risfrutta, che non c'è neanche più. Ha detto che questo è il testimone, effetti, quando viene il tuo via domani sera, a 24. Hai capito che fa con la giana che si farà? Spero che non sta a fine di parlare. Ho fatto le brutto lì, è rimasto come un uomo. Fai confronti così, e nella segue di un elenco, con un barbiere, e tu di fronte, ti avrai dato una denunciata, poi mi hanno stata, guarda, una cosa. E che ho da chiedere un libro, io ti avevo buttato l'altro mia moglie, che ho giudicato con mia moglie di non farle nulla, di non querelarla, di lasciare la pelle, nulla, già. E io mi sono tenuto, e lì cui andata, questa è una grande calunnia che non si è permessa, mia moglie di vedere un po' fa. Lei a mia moglie, bene che io queste cose le dico, ecco perché sono posizioni che sono qua, mi fa ricordare questa, a fare la conoscenza, se mi consegue già, che sia una cosa anche così, non voglio attaccare più qualcuno con nessuna, io sono un soldato, io sono lì, in famiglia, come ce li hanno tutti, e non voglio più avere che fare con cose che vengono a costruire del cazzo, per fare amicizia, fare niente di credito, ma... Ti volevo chiedere una cosa. Siccome io di queste donne, come stai dicendo la descrizione, che hai detto tu e che fa queste cose, ne conosco una che fa queste cose proprio. Però se mi confermi, il nome inizia con la V. Negativo, non inizia con la V. Non inizia con la V, per fare. Questa qui di tanto inizia con la V, non posso fare il nome perché me ne riservo per fare, guarda. Però non è di qui, ma da quando si è creato casini in tutti i paesi, ecco non si sa più che avete un altro cucchiaio. Ha creato cose, guarda, che la fine del mondo perché si è picchiata gente, sono venuti alle mani, hanno rovinato un sacco, rovinato. Ha fatto un bene pugno a sacco di gente, io non sono il tipo che con lui mi è stato solo il problema, che quando era piccolo il figlio, quello che ha avuto il primo marito, che era Ottavio, che era piccolo, stesso non potevano bene, lo sai per fare che me lo stava trovando, se non intervieni mia moglie mi avrebbe trovato a Ottavio, 20 anni, qua pure me lo so io. E la mia volta fa prendere perché era incinta, quindi, di un altro, da un altro tipo, guarda. E da solo si è attaccato a solo, ha cercato di attaccare in giro, ma non sa quella che è evitata, perché la presa con me l'abbiamo evitata, però questa roba che ha fatto adesso, mia moglie non è stupida, perché eravamo tranquilli nell'uscio di casa, io stavo con una passeggiata domenicale in estate, e niente, anche il maricato della stazione mi ha dato ragione, perché la conosco, mi ha fatto dietro in mezzo alle streghe, però se sono caduto è stata capace di dire che quella mia moglie ci ne ha detto che non va a portare mia moglie di queste cose, non mi ha detto mia moglie, mi ha preso a me e mi ha entrato dentro proprio per pensare che io le mettevo le mani, ma io quindi i denti molto scaldi che sono da guardo, però questo che era con lì quando ha suonato che ha aperto la porta che mi ha traumatizzato a Claudio, hai capito? Dunque ho meno sentire dentro io. Allora è che mia moglie ha fatto questa denuncia, tutti e due, lui, sì, siccome mi ha rinforzato, mi ha fatto una controprova che mia moglie l'ha di loro l'altra mano. Stiamo scherzando, e quindi ero solo giù di queste cose perché mi davano molto fastidio, perché io, che non ho fatto la scherza, sputato da questa, non ho mai, non ho dovuto fare nulla, mi chiedi anche nei versari, proprio perché la conosco che tu una buona negozia, mi senti già? Non ti preoccupare, ma non sono lasciate fare certe persone, basta. Mi avrei fatto venire malumore per lì. Il tuo padre me l'ha detto, tu qua adesso lo vedi, adesso andare, quelle, ma io già, come te l'hanno detto, è sempre così, è davvero una lontane, bisogna andare a farlo, perché è questa che continua e si fa, e ogni volta che passa in macchina mi ha pure di dire, tu sei una puttana, tu sei di lui, a mia moglie la lascia perdere, tu a mia moglie la conosciuta, e la lascia perdere, dove la cambiata, le rubinette non mi basta, e poi ha fatto quello che mia moglie dice, mia moglie è girata, diciamo, come che non ci abbiamo a che fare, non vado al bar, quindi non vado a farci del riscaldo, non mi metto nei comitati delle spese, sono ritirato, forse, non lo so, c'è qualche passione che lì non è neanche di qua, non posso pensare neanche che è roba politica, perché lì non è di qua, lì altro non capita neanche più, però si tratta di casa, in affitto del mio amico che fa il carro dei corsi, e questo con una scusa l'ha battuta fuori. Forse quello lì ha fatto anche vedere magari qualche cosa che sono io che ho parlato un po', mi ricordo a mandarsela dare lo sguardo, però non è per nulla già perché io non ci sto facendo, ti posso garantire che non ti ho parlato, questa casa aveva dei problemi di struttura perché è stata costruita e stava diciamo qualche cosa era pronta al crollo e la stavano ristrutturando perché quando l'hanno fatta costruire il padre del mio amico faceva il carabiniere, poi l'hanno fatta dei duratori così improvvisati e quella cosa di problemi, però io minimamente mi sono permesso al mio amico di dire niente di anzi molte volte l'ho anche difesa e riprendita KK e vabbè ci sono sempre queste persone c'è il Paolo va ehi K io riprendo per chiudere dai. Vi saluto con la buonanotte circolare a tutti e anche gli ascoltoni. Vi saluto, buonanotte, buon tutto. Dai, non te la prendere, la vita continua, sorridi e fregate, lascia perdere. Ciao, ti saluto, buonanotte, buonanotte Gianni, doppio rumbo. Ci sentiamo domani, dai. Ciao, ciao. Ciao Pierpa, buonanotte, non trovo per domani, avanti. Capri 2 comunque non è freddo mi sono molto il morale quando parlo ma niente ma non c'è niente con questa disgraziata perché se non ci sarebbe bisogno di libertare se le persone ci vogliono perché ci devono essere no, non mi interessa più l'estratto riprendi già vabbè a mare bisogna passare capo per Paolo da Tuffia saluta già sentito ehi ho detto per Paolo se ne sta andando. Ma hai capito, capito, saluta Pierpaolo. Ci siamo sopravvalutati, ciao Pierpaolo, siamo sopravvalutati in cose mondiali. Ciao Pierpaolo, buon posto, buon venerdì. Quante anni fa? Ciao papà. Resta Capri 2, riesco a sentirlo perché sto guardando in basso. Non molto bene, bene, bene, però riesco a capire che c'è, dai. Non so se lui mi sente. Capri 2, l'ascolto. Dai. Dai, mi ascolti. Dai. Allora se ne vende. Dai, cosa se ne vende, secondo te, Andrea. Te ne venuta. E ti sta... stavamo chiamando. Vabbè, ne parliamo. Io direi che forse è meglio cambiare canale qua, perché se no non vi senti. Anche su Mondo Zero. Andiamo sull'uno, sul canale 1.